Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte seconda, lezione 16. Ci sono 613 regolamenti. Uno dei regolamenti è che quando una persona vede un uccello che nidifica con le uova e l'uccello è nel nido, non può prendere le uova o i pulcini insieme con la madre. Se pensi a questo con la tua mente terrena, probabilmente il risultato sarà una conclusione assurda, perché quasi certo userai le tue emozioni e dici che la madre non può vedere la sofferenza. Ma come già sapete, stiamo parlando di leggi spirituali e le leggi spirituali sono diverse dalle leggi terrene. Se vuoi crescere, leggi ogni giorno alcune di queste leggi, fino a quando non le conosci tutte. Puoi trovarle sul sito web. Ricorda che quelle leggi sono le leggi dell'universo e non le leggi degli ebrei. Sono importanti per ogni essere umano. Tu che stai leggendo questo, sai che il tuo interiore si gira verso Israele e diventa Israele. Questo studio dello Zohar è costruito in un modo che non hai bisogno di diventare un ebreo in carne e sangue. Se senti un impulso, non chiedermelo, perché non è il mio compito. Sono e rimango neutrale. È una tua scelta. Sai, nel momento in cui entri dentro la Kabbalah, entri nel sentiero che conduce a Israele. Non l'ebreo, ma Israele significa che puoi ricevere tutte le benedizioni dall'Eterno, insieme con la nazione scelta. Diventi parte della nazione scelta, pertanto è buono leggere le leggi, ma non c'è bisogno di capirle. C'è l'interno e l'esterno. L'esterno significa in forza una copertura in più che l'interno. Israele è una forza che è presente qui per ordinare a seguire le leggi dell'universo. Qualunque cosa accada, Israele è forza dentro di te ed è presente in tutta l'umanità e costituisce la parte più interiore dell'umanità. Così come il Tempio è circondato da tre strati di giudaismo e poi gli altri. Ricorda che nulla è uguale l'uno all'altro. Ogni nazione ha la sua propria posizione, considerando l'umanità semplice, perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Non che uno sia più importante, sappi che tutti sono importanti. Anche il mignolo è importante per il tuo corpo. Uno ha questa radice e un altro ha un'altra radice. Tutti sono costruiti in questa piramide spirituale. Affidate a Israele sono le 613 leggi universali e il significato di quelle leggi e di portarli al nostro mondo. Il lavoro di questa nazione è portare le 613 leggi dell'universo al nostro mondo. Mentre il Noachide e il resto dell'umanità ha solo 7 leggi. E di meno, Il fatto è che sono meno sviluppate, ma ognuno di noi deve seguire solo queste leggi per l'umanità. Non è elaborato. È abbastanza per l'umanità. È abbastanza sufficiente per l'umanità rispettare rigorosamente le 7 leggi di Noè. È incredibile quanto sia importante seguire rigorosamente le 7 leggi di Noè per mantenere lo spirituale. Ad esempio, c'è il monte Sinai, o Sinai, non geograficamente, ma al monte Mosè è andato spiritualmente. Come sapete, ogni cosa consiste di YHWH, YHWH, come una piramide che significa che il più basso è il più grossolano, è più vicino alla nostra parola materiale e ha più numeri. Malkut. Ci sono 248 comandamenti. Significano ciò che deve essere fatto. Ci sono 365 divieti e insieme fa 613. Perché 613? Perché dovrebbe essere un numero concreto come stiamo vivendo nell'eternità? Perché 248 più 365 uguale 613, 6 più 1 più 3 uguale 10. Zeirampin. Il numero 248 semplificato è 14, il livello più alto è 14. Nella lingua ebraica il numero 14 è Yad, che significa mano. Quando semplifichiamo il numero 365 è anche 14, che significa due mani per portare giù la Torah. Binah. Ora andiamo a un livello superiore, il livello di una mano, perché se semplifichi 14 diventa 5 e perché c'è 2 volte 14 e diventa 2 volte 5, insieme i 10 comandamenti della Torah. Keter. E quando semplifichi 10 diventa 1, l'unità del creatore. Ein Sof. Questo è il punto raggiunto da Mosè rispetto alla sua comprensione del creatore. Il creatore è venuto alla cima della montagna per parlare con Mosè. Significa che Mosè è passato da Malkut a Binah, e Binah è l'aspetto del dare. In ogni situazione dobbiamo fare lo stesso, andare da Malkut a Binah per ricevere la Torah, 10. 248 più 365 più 10, 14 più 14 uguale 28 uguale 10. Il numero 28 è per dopo. 5 più 5 uguale 10. Hai bisogno di 10 gradi per alzarti, 10 gradi per capire, per la saggezza. Questo non è il momento di spiegare il perché, ma c'è la necessità di 248 gradi per portare la Torah al nostro mondo e di rispettare i 365 comandamenti in questo mondo. Il Creatore è uno e il suo nome è uno. Arriva un momento nella tua comprensione che il Creatore e il suo nome sono uno. 10 a un livello superiore è 1. Ad ogni livello hai bisogno di raggiungere l'unità. Su qualsiasi scala hai 10 in te stesso e su una scala superiore, considerando il creatore, puoi ridurlo a 1. Si dice circa Mosè ha scalato i 49 cancelli di saggezza, ma il cancello 50° non è stato dato a lui. Perché no? Come forse saprai che fino alla correzione finale dell'intera umanità rimane un punto che significa alcuni desideri che non sono stati corretti. Ad esempio, puoi correggerti completamente, ma c'è ancora la morte. A Mosè fu data tutta la saggezza, la perfetta unità con il Creatore, ma tuttavia poteva solo salire su 49 cancelli, non su 50. Che cosa sono i cancelli? Lo Zohar parla molto dei cancelli, quindi qual è il significato dei cancelli? Cosa significa questo? Significa che nella tua visione, in alto nel tuo interno, si apriranno i cancelli e potrai entrare nella sala dove è il Creatore. Hai bisogno solo di chiedere se puoi entrare nella sala. Hai bisogno solo di chiudere la stanza dei problemi ed entrare nella sala dell'eternità. Dipende solo da te. 49 cancelli di saggezza, Kokma. Malkut, lontana terra. Kokma, esce fuoco. Come sai, ogni persona ha dentro 4 elementi. Una persona può avere più fuoco, si intende che ha una piccola, rapida comprensione, e un'altra persona ha più terra, si intende che è più tranquillo, flemmatico. Ciò significa che quest'ultimo è più corretto? Se guardi lui, pensi che lui è così silenzioso, ma può avere problemi con la sua tranquillità. Ad esempio, lui non si muove, è inerte. Ogni persona ha la propria misura, considerando i 4 elementi. Binah, Maim acqua, che significa che è fluido ma non tanto quanto Kokma. L'acqua ha la forza di distruggere. Zeirampin è Ruach, spirito. Zeirampin è aria, aria di Hashem. Ruach è spirito, ma quando parlo di 4 elementi della creazione, il nostro corpo ha anche 4 elementi, ma nello spirituale. Quando parlo di fuoco intendo Kokma. Spesso gli elementi sono usati in modo negativo. Qui è diverso, ma è per dopo. Malkut, lontana terra, Assia. In ogni condizione c'è Malkut Assia. Zeirampin è Yetzirah. Binah è il colore rosso. In un certo modo non ci sono colori nello spirituale, solo punti di forza, ma il colore è un buon esempio per darti un'immagine, più informazioni considerando la forza. Binah è Bria, ed è possibile che sia Bria di Asia o Bria di Azilut. Tutto dipende da quale è la sua radice. Kokma è il colore bianco. In un certo senso non c'è il bianco, quindi significa più trasparente, e Kokma è trasparente. Keter è Adam Kadmon. Domanda: l'aria è più sottile dell'acqua. Perché l'aria non è superiore dell'acqua? Sarebbe logico, ma solo con il nostro intelletto. Più tardi vedrai che è diverso. Il fuoco è la forza della diffusione. Puoi vedere questo anche nel nostro mondo. L'acqua si sta anche diffondendo, ma meno. L'aria ha anche la forza di diffondersi, ma ancora in modo diverso. L'aria è più una forza maschile, come sapete. Il creatore ha creato uno contrario all'altro. Puoi estinguere con l'acqua, ma ricorda che non sto parlando delle misurazioni terrene. Il fuoco che estingui con l'acqua significa che il fuoco è maschio e l'acqua è femmina. Zerampin è maschio e Malkut è femmina. L'aria penetra la terra attraverso i pori e l'aria nutre la terra. L'aria rende la terra porosa. L'aria penetra tutti i pori. Perché hai disegnato il lato destro della piramide più grande? Il lato destro, 365, questo è il desiderio del creatore, è come è. Se guardi il monte Sinai, vedrai lo stesso. La montagna non è esattamente un triangolo equilatero. Forse è meglio disegnare il 365 sul lato sinistro, perché c'è Gvurot, ma il modo in cui è ora non è sbagliato, perché parlo del creatore che sta scendendo sulla terra. Quindi, dal punto di vista della luce, è buono. Da sopra vengono tutti i comandamenti. Chi lavora su se stesso diventa Israele. Chi non lavora su se stesso non diventerà Israele. Forse viene da Israele, ma solo nella carne. Ricorda che non sto parlando della terra di Israele. Quindi lascia andare la resistenza e prova ad accettare ciò che ascolti e leggi. Più giù la Torah arrivava e più gradi dovevano essere realizzati. Significa che l'essere umano doveva essere molto vigile. Un ebreo ha l'obbligo di seguire rigorosamente i 613 comandamenti e di portare la Torah più giù ai quattro mondi. Questa è la realizzazione della maturità che aveva in mente il Creatore quando diede la mela all'albero di vita, e il popolo ebraico fu il primo a raggiungere la maturità in questo albero di vita. In che modo sono diventati maturi? È stata la luce stessa a vedere che erano pronti. Quindi hanno tenuto la sfida per portarla giù. Non importa cosa pensano i leader politici. Hanno il compito assegnato dal Creatore per portare giù. Pertanto ci sono tre cose che devono tenere a mente. Fino all'arrivo del Messia, un ebreo deve preferire la morte, spargimento di sangue. Se un ebreo ottiene l'ordine di uccidere un'altra persona e rimanere vivo egli stesso, dovrebbe preferire la morte. Quello che vediamo al giorno d'oggi, un ebreo è così impegnato a rimanere vivo, eppure il suo compito è quello di preferire la morte e non uccidere un'altra persona. Idolatria. Se qualcuno dovesse dirgli inginocchiati per tua madre, egli deve preferire la morte piuttosto che l'idolatria. Non può mai inginocchiarsi per sua madre o a qualsiasi Dio. In questo puoi vedere perché era ed è impossibile per un ebreo che sia un cristiano. C'è stato un tempo che qualcuno pensava che gli ebrei dovessero diventare cristiani, ma chi è realmente un ebreo è Israele, che significa che ha l'unità e controlla la sua unità e porta giù il sistema operativo sulla terra. Per lui è proibito diventare un cristiano. Non ho l'idea che sto giudicando il cristianesimo. Ciò che intendo è questo. Il cristianesimo è il lato esteriore del giudaismo. Il cristianesimo ha la stessa radice del giudaismo. Ma cosa succede se la radice è rimossa? Supponiamo che dicano agli ebrei che invece di essere l'interno diventa l'esterno. È un bene per loro che sono cristiani? In un certo modo il popolo ebraico avrebbe portato un'enorme civiltà, proprio come fecero nel XVIII secolo, specialmente in Germania. Molti ebrei divennero cristiani e generazioni dopo ne subirono le conseguenze, perché questo era il desiderio del Creatore. Caratteristica per caratteristica, pan per focaccia. Se un ebreo ha il desiderio di sbarazzarsi della sua radice, sarà sradicato. I cristiani pensavano che fosse un bene per il popolo ebraico, e certamente questa battaglia era anche necessaria, ma un ebreo avrebbe preferito la morte piuttosto che vendere la sua anima al diavolo. Non allora, non ora e non in futuro, non fino all'arrivo del Messia. Diventa sempre più chiaro perché un ebreo era ed è così testardo e sceglie l'unica forza creativa. Furono loro che salirono sul monte Sinai e videro il Creatore. La luce che li penetrava era la luce del Creatore mentre stavano sul monte Sinai. La luce del Creatore li ha penetrati fino alle loro fondamenta. Puoi confrontarlo con una scossa elettrica o con una spada che li taglia. Ognuno di voi ha la possibilità di diventare la parte interiore degli uomini, perché ognuno di voi seguirà spiritualmente i 613 comandamenti. In questo momento ci sono ebrei ortodossi che seguono i 613 comandamenti, ma in realtà possono eseguire solo 25 con le loro mani e piedi, perché il Tempio non c'è più e la maggior parte ha a che fare con il Tempio. Il Tempio è andato, ma le leggi sono ancora le stesse. Ad esempio, c'è una legge chiamata liberare il matrimonio, che significa che se un fratello è morto e non ha lasciato nessun seme, nessun figlio, suo fratello ha il dovere di sposare la vedova e dare il suo seme, renderla incinta, e dare al primo figlio il nome di suo fratello morto. Come si può effettuare in questo tempo? All'inizio era possibile, ma anche nel Novecento c'era un rabbino di nome Heschel che proibiva al popolo ebraico di seguire questa legge. Perché? Perché non abbiamo più quei battitori. Naturalmente alcune persone diranno che non è un problema, adempirò a questo comandamento, ma onestamente nessuno è capace di adempiere a questa mitzvah. Quindi come puoi adempiere a tutti quei comandamenti? La prima cosa che devi fare è leggere la Torah, puoi trovarla sul nostro sito e in seguito imparerai di cosa si tratta. Più avanti vedrai che tutti i 613 comandamenti sono leggi divine dell'universo. Dopo la distruzione del Tempio, rimasero 25 comandamenti che potevano essere eseguiti solo con mani e piedi. Più avanti vedrai che sono tutte leggi divine dell'universo. Israele, l'ebreo, deve seguire i 613 comandamenti perché è la parte interiore dell'umanità e non potrà mai essere tentato di fare qualsiasi altra cosa, perché è suo il compito di portare giù tutte le altre nazioni. La qualità delle loro anime sono gusci per l'ebreo interiore. Il cristianesimo, ad esempio, è anche un guscio, sebbene hanno accettato la Torah e hanno accettato gli stessi profeti, ma sono un guscio perché la radice sono gli ebrei. Un ebreo è il più vicino al Creatore, è un cristiano. Prova a capire che c'è un caleidoscopio di forze che si completano a vicenda, e ciò è meraviglioso. Un guscio, per esempio, è il cristianesimo, il Nuovo Testamento. Non pensare che ci sia qualcosa di sbagliato con il Nuovo Testamento. A loro livello è vero, ma non riescono a penetrare, non possono arrivare alla parte interiore, il quale sono gli ebrei. Hanno accettato i 5 libri di Mosè, ma l'esperienza più profonda del Creatore essi non la conoscono. In questo puoi vedere cosa intendo quando dico che gli altri non riescono a raggiungere la saggezza interiore, ciò che intendo davvero. Sebbene abbiano ancora adattato alcune preghiere, ancora non possono penetrare e arrivare all'aspetto interiore. Ciò che rimane è la distanza tra loro e Ein Sof. È necessario e non sbagliato, perché ogni cosa è assolutamente costruita dai gusci. I greci hanno la loro cultura, diffusa nel mondo. Gli ebrei la presero e costruirono i principali teatri, ma ricorda che non sono ebrei. Lasciatelo a coloro che hanno la conoscenza. I greci erano meravigliosi, ingrandivano la cultura e la portavano nel mondo. Tutta la civiltà occidentale, le loro radici, risiedono nella cultura greca. Il design è assolutamente greco, occidentale, ma non è pensato per un ebreo. Un ebreo deve tenersi impegnato con il contenuto, il significato interiore. Deve aggrapparsi al Creatore. Più in alto una persona sale, meno cambia. Lui deve diventare uno con il Creatore. Un ebreo necessita di arrivare all'unità, mentre gli altri, ovviamente la cultura è buona, a tutti piace. Mi piaceva anche la musica. Quando avevo 19 anni suonavo la tromba e sono stato invitato a suonare in concerti. Ho suonato jazz e Dixieland, ma se fai qualcosa dovresti provarci. È tutto o niente e ho dovuto prendere una decisione e ho smesso perché o c'è amore o no. Questa forza ti viene chiesta di costruire in te stesso, perché se vuoi diventare Israele devi capire nello spirituale non c'è metà. È tutto o niente. Il Creatore è uno. Qualunque cosa tu faccia per l'unicità. Tutti i 613 punti di forza devono essere lì e devi portarli dentro di te, portarli insieme come uno. Non importa se i punti di forza provengono da destra o da sinistra, fai loro uno. Prova a vedere le relazioni in ciò che fai, non affaticarti usando il tuo intelletto. Le quattro lettere del nome, Yud, Ei, Vav, Ei, Yud è il nome del creatore, Atzilut, Kokma, Ei è Bria, Bina, Vav. Vav è Yetzirah, Zerampin, l'ultima Ei è Asya, Malkut. L'ultima Ei è Asya Malkut. Guarda com'è bella la semplicità. Malkut e Binah sono collegate dalla lettera Ei. È Binah, la madre, che costruisce Nukva. La luce viene da sopra a sotto. Non c'è differenza tra le persone. L'unica differenza che c'è è in coloro che lavorano su se stessi o no. Ora continuiamo con lo Zohar. Non darò molte spiegazioni. Più avanti nella visione di Sulam andremo più nel dettaglio. Pagina 5. Sopra, il testo originale in lingua aramaica. Paragrafo 3. E anche come l'immagine di Brit è stata seminata da 42 zivugim, da quel seme così pure è seminato il nome scolpito esplicito, da 42 caratteri dell'atto di creazione. E anche come l'immagine di Brit è stata seminata da 42 Zivugim, da quel seme, e sai cos'è Zivug, per favore prova a ricordare alcune parole ebraiche. Così anche è seminato il nome scolpito esplicito. L'ultima parola ebraica è Mefaresh e significa esplicito, il nome esplicito del creatore. Di 42 lettere dell'atto di creazione. La traduzione ebraica. E proprio come nell'immagine di Brit, eccetera, proprio come è nell'immagine di Brit, è seminato in 42 zivugim di quel seme. Così anche il nome scolpito ed esplicito è seminato in 42 lettere dell'atto di creazione. E proprio come nell'immagine di Brit, eccetera, e proprio come nell'immagine di Brit il patto è seminato in 42 zivugim di quel seme, così anche il nome scolpito ed esplicito il nome scolpito ed esplicito è seminato in 42 lettere dell'atto di creazione. Ora continuo con la spiegazione di Sulam. La spiegazione delle parole, il segreto del nome di 42 lettere, è Avaya singolare e Avaya riempito e Avaya nel riempimento del riempimento. In loro sono 42 lettere e il significato sarà spiegato nella visione di Sulam. E questo seme è nel segno del patto, che sono 5 chassadim e 5 gvurot. Come detto sopra, essi sono estratti dal nome 42. Spiegazione delle parole. Più avanti vedrai qual è il significato dei 42 nomi. In questo è un grande segreto per aiutarci a sorgere alla rivelazione. Prima 42 e poi sempre di più. Il segreto del nome di 42 lettere è Avaya, singolare, senza riempimento, e Avaya, riempito, dopo lo capirai, e Avaya, nel riempimento del riempimento, pazienta, ti sarà chiaro. In loro sono 42 lettere, e il significato sarà spiegato nella visione di Sulam, e questo seme è nel segno del patto, che sono 5 Hassadim e 5 Gvurot, come si è detto sopra. Essi sono estratti dal nome 42. Sto traducendo lo Zohar parola per parola, frase per frase. Traduco il testo aramaico, il testo ebraico e la spiegazione di Sulam. In questo modo ognuno di voi ha la capacità di apprendere e leggere in modo indipendente questo libro e di leggere anche altri libri. Ma nota, apri te stesso, avere la giusta kavanah e non fare questo per acquisire conoscenza, perché sarà inutile. Ci vorrà del tempo, ma da nessun'altra parte hai la possibilità di impararlo in questo modo. Richiede tempo, forse dai 4 ai 5 anni. Yehuda una volta disse che una persona ha bisogno da 4 a 5 anni per entrare in contatto con lo spirituale e costruire i cancelli proprio come Mosè aveva fatto. È anche scritto che ogni persona sia come Mosè. È anche scritto che ogni persona sia come Mosè. Dopo 5 anni ognuno di voi deve avere la connessione. È possibile che una persona ottenga questa connessione dopo 7 mesi. Il tempo non importa. Ogni cosa dipende dai desideri che hai. Supponiamo che una persona abbia il desiderio di diventare una cosa sola con il Creatore, ma tuttavia la sua testardaggine è nel modo. È difficile perché si ha bisogno di un fondamento e per esempio il Talmud dà un fondamento ma non lo Zohar. Lo Zohar toglie tutte le fondamenta che puoi avere costruito, ma questo non significa che hai bisogno di cadere. Lo Zohar è un fondamento non essendo un fondamento. Puoi confrontarlo con il Creatore o alla luce che è suscettibile e insensibile. Come possono due cose opposte allo stesso tempo affermarsi? Questa è la logica divina. È l'unità tra sì e no. Sii paziente e fiducioso che avrai l'esperienza un giorno. Con l'aiuto di Hashem ce la farai. Arriverai alla fine del primo libro. Non c'è corso al mondo che abbia fatto questo, ma tutto dipende da te, dalla tua kavanah, dal lasciare andare la tua testardaggine, eccetera. Solo quello ti dà l'entrata all'eternità, l'ingresso alla scala. Ora continuo con la prossima frase dello Zohar. Non spiegherò più perché più tardi Sulam ci darà una buona spiegazione. Lui ve lo rivelerà. E questo è quello che dice lui, è l'autore dello Zohar. È proprio come l'immagine del Brit, il patto, che lei è Nukva. Seminato in 42 Zivugim dal seme di Zerampin. Sai già che Yesod di Zerampin ha due parti dentro di lui, ossia la parte superiore e quella inferiore. Da sopra, da Yesod, è venuto 5 Chassadim e da Ateret Yesod sono venute 5 Gvurot, sopra, e questo è chiamato seme, e dal seme viene vivere. Yesod di Zerampin lo ha passato alla Nukva, allo Yesod della Nukva, perché Yesod trasmette a Yesod. Dal segno di Brit, proprio come la semina. Proprio come la semina avviene in Yesod da Zerampin, che dà alla Nukva 5 Chassadim e 5 Gvurot nel mondo, nel modo di Zivug. Del nome scolpito ed esplicito di 42 lettere dell'atto di creazione. Aprite voi stessi e vedrete, arriva un momento in cui avrete tutto. Ho imparato da chiunque, non c'era nessun rabbino che mi ha insegnato. Ognuno di voi può farlo perché non sono così intelligente. Ognuno di voi può ricevere questo, solo il tuo desiderio deve essere vero. Deve essere un desiderio appassionato, allora sarà rivelato anche a voi. Non conosco nessuno al mondo che possa darlo. Naturalmente ci sono grandi cabalisti nel mondo, solo che tu non vedi riconoscendoli, e a lui che è un rabbino, e se dovessi chiedergli di insegnarti lo Zohar, lui non potrebbe. Conosci qualcuno in Europa che è capace di insegnare lo Zohar? Io non l'ho fatto. Avevo un profondo desiderio di imparare, ma non c'era nessuno che potesse insegnarmi. E quello mi ha fatto soffrire molto. Avevo un profondo desiderio appassionato, quindi avevo un'enorme infelicità. E poi è diventato per me da sopra, dalla luce compassionevole. Ho ricevuto la luce senza nessun luogo per imparare. Avevo una profonda brama dentro di me. Desideravo così tanto, ma non c'era nessuno che potesse insegnarmi. C'è da qualche parte che tu puoi imparare lo Zohar in questo modo? Ho cercato e cercato in tutto il mondo e non l'ho trovato. Quindi la sofferenza era grande, perché anche il mio desiderio cresceva. E poi venne da sopra, dalla luce compassionevole. Lo stesso accadrà qui nel nostro studio. Dopo un po', forse 5 anni, ma può succedere anche dopo 5 mesi. Se il desiderio è lì, la Kavanah sarà data anche a te. Il desiderio deve essere così profondo che dici, piuttosto morire che non vedere la luce. Ma se dici sì ma, rimuovi quella parola dal tuo vocabolario e nel tuo sistema, rimuovilo perché nello spirituale, nell'eternità divina c'è solo sì e no. Se il tuo desiderio, la Kavanah, è sincera, i cancelli si apriranno per te. Non importa quanto intelletto tu abbia o quale sia il tuo background. Mio padre era un uomo normale, un ebreo analfabeta. Non aveva avuto il tempo di imparare perché viveva in un periodo in cui era un periodo terribile in Russia. Avevo 4 anni ed era il tempo del dittatore Stalin. Mio padre aveva un senso per la Kabbalah, ma non aveva alcuna conoscenza. Secondo la Torah, un ebreo dovrebbe preferire la morte per 3 cose. Questo era, è e sarà così fino alla venuta del Messia. Se menziono relazioni sessuali illegittime, non intendo l'incesto, la bestialità o altre cose proibite nella Torah. In questo devi scegliere la morte al di sopra di questi rapporti, se no uno verrà ucciso in un altro modo. Certo, sto solo parlando dello spirituale, ma che ricorda gli ebrei che vivevano in Germania e dal XVIII secolo hanno detto «Wir sind Deutschers», «Deutschers», «Noi siamo tedeschi». Molti ebrei lavoravano per famosi tedeschi, ma di conseguenza per la legge ebraica è vietato e sono morti. Se non si sceglie la morte sopra tutte queste cose, allora ci si stacca. Puoi fare diverse cose e per molte cose puoi fare il pentimento, ma non per questo. Fino all'arrivo del Messia si arriva prima davanti a una corte. Una volta che il Messia è qui, riceveranno anche la vita, ma solo quando il Messia è qui. Fino a quel momento vengono davanti a un tribunale e tutte le anime, considerando la loro forza, ovviamente saranno giudicate. Guarda ciò che qualcuno ha fatto e se qualcuno ha fatto un peccato profondo, deve subire un'enorme sofferenza e dopo la sofferenza diventerà vivo. Ricorda la storia di Sodoma e Gomorra, che furono tutti uccisi. Tutte le anime di Sodoma e Gomorra furono uccise. È scritto che quelle anime non si incarneranno, e quello è orribile perché non ci sarà il mondo futuro per loro. Lo Zohar mi ha aperto gli occhi. E questo è fino alla venuta del Messia. Solo durante l'arrivo del Messia i luoghi di Sodoma e Gomorra fioriranno e le anime torneranno. Non c'è logica, nessuna religione che possa darti un punto d'appoggio. Non c'è spiegazione per questo. Quindi è sufficiente considerare questo argomento. È assolutamente impossibile discutere di questo con altri, nel senso che non hanno l'esperienza spirituale, dello spirituale. Naturalmente in te ci sarà qualche resistenza, ma lascia la resistenza per quello che è. Non alimentare la resistenza ancora meglio. Lascia andare la tua resistenza. Perché il lasciare andare la tua resistenza ti darà accesso a te stesso, ti darà accesso all'eternità e a questa vita. Come viene? Tutte le conoscenze occidentali, gli gnostici, eccetera, vivono in questo mondo e sperano per il mondo futuro, anche se non hanno un indizio di ciò che sperano. Certo, desiderano ardentemente la vita eterna, ma non hanno lo strumento che li porterà fuori dal cosmo, dalla loro conoscenza. Devi sapere, qualunque conoscenza c'è nel mondo occidentale è ancora connessa con il cosmo. Il fatto è che devi lasciare andare l'idea di un cosmo. Chi vive nel mondo occidentale nel nostro mondo spera per il mondo futuro, e chi vive in Oriente vive nel mondo futuro e con le aspettative del cosmo. Vive nel cosmo. Il suo interno è come il cosmo e trascura questo mondo. Dall'interno sono molto poveri considerando il nostro mondo. Quella è la loro visione, le loro anime, mentre la realtà, qualunque cosa facciamo, ricordiamo questo e non pensiamo che essi siano tutti in paradiso, la realtà è vivere qui e allo stesso tempo essere nel mondo futuro. Il significato del mondo futuro è ricevere dall'esterno del cosmo, ricevere da oltre il cosmo e portarlo in questo mondo. Questo è il significato di vivere in entrambi i mondi. E quando muori e ti lasci alle spalle il tuo corpo materiale, porti con te le osservazioni di entrambi i mondi. Tutte le esperienze, osservazioni, stanno con te, significa quando hai solo pensieri sporchi, sappi che non sarà diverso dove vai. Se attrai punti di forza impuri, nota che non sarà diverso lì. Se una persona è un cocchiere qui, sarà un cocchiere lì, perché è esattamente lo stesso. Nulla viene dall'alto e non dal basso. Tutte le cose che attrai e stai attirando cose sante, quindi sarà lo stesso quando sei sopra. Quello che ottieni lì è lo stesso che desideri qui. Le religioni ce lo dicono in modo differente. Ma la cosa è, devi vivere qui. La Kabbalah ci insegna che dobbiamo vivere qui e nella vita futura. Mentre viviamo qui, deve essere una vita che si riferisce a entrambi, da due lati. In modo positivo si sta facendo uso di due lati. Vi sono tre divieti e Israele dovrebbe preferire la morte piuttosto che ammetterla. Se lavori su te stesso, sei Israele. Quindi porta questi tre divieti nella tua memoria, altrimenti sarai morto spiritualmente. Uno dei tre divieti è l'idolatria, che significa che idolatrare qualcuno o qualcosa oltre l'uno è l'unica forza creatrice. Supponiamo che qualcuno venga da te e ti dica di fare l'amore con la donna più bella del mondo, mentre sa che è una relazione proibita. Lui dovrebbe preferire la morte. Anche in questo tempo, uno degli studenti fa una faccia. Vedo che non sei d'accordo, ma è il tuo intelletto che si frappone. Supera te stesso, ma devi farlo da te stesso. Egli ammette, è buono che tu lo ammetti perché ora puoi vincere. Sai chi sta combattendo? È il tuo esteriore perché il tuo interno è d'accordo. Pertanto sei ancora qui. È il tuo esteriore che dice che sciocchezza, ma il tuo interiore dice verrà. Questa è la lotta dentro di te. L'interno non capisce, ma è ancora qui. Questa è la battaglia che devi combattere e hai bisogno di questa battaglia, altrimenti come potresti superare e ascendere? È lo stesso per questo mondo. Significa perché ci sono due aspetti con Nukva. Uno è la costruzione del suo parzuf. Prima Nukva aveva una sola sfira e ora dal suo corpo spirituale 10 sfirot devono essere costruite. È lo stesso con noi. Impara questo senza capire. Vai oltre la tua comprensione. e abbi fede, la giusta Kavanah. Non ho mai avuto l'idea che sto parlando di qualcosa che è fuori di te. È tutto dentro di te. Anche se non hai comprensione in questo momento, sai che sta lavorando dentro di te. Che lei è costruita da Binah. Ricordi ancora l'inizio della Torah, Bereshit bara Elohim? Nel principio Elohim creò, ed Elohim è Binah, e Binah ha creato Malkut. E questo sarà spiegato nell'atto di creazione. E la costruzione della Nukva, la Malkut del mondo Atzilut, sarà spiegata nell'atto di creazione. 2. È l'aspetto del suo zivug con Zeirampin. Proprio come con una ragazza, all'inizio è solo una ragazza, ma dopo, quando lei ha 18 o 20 anni, è matura. Il suo corpo è costruito, ha costruito tutto e ora è matura per avere zivug con un uomo. Lo stesso qui nello spirituale. Prima c'è la costruzione, altrimenti non può esserci zivug. Un bambino non può fare figli. Ci sono due aspetti in Nukva. Prima la costruzione e poi lo zivug con Zeirampin. E questo è chiamato il segreto di unità. Rasa dei Uda è aramaico. L'unico modo per ricevere l'unità è tramite zivug. Lo stesso qui sulla terra. Un uomo e una donna hanno bisogno di unirsi e per mezzo di questa unione possono arrivare all'unità. La luce, la comprensione, viene a te e ti rendi ricevibile e poi ricevi l'unità. In ogni grado questa è l'unità che dovresti perseguire. Devi costruire a un livello superiore, il che significa che le contraddizioni diventano visibili e possono solo essere risolte a un livello superiore. E questo è possibile solo tramite Zivug. Ed è quello che lui ci dice, proprio come l'immagine di Brit, che lei è Yesod di Nukva, Yesod di Zeirampin ha dentro di lui il seme, 5 Chasadim e 5 Gvurot, e questo lo dà a Nukva. Usiamo la parola seme così come è scritto nella Torah. È seminato in 42 Zivugim di quel seme. La Nukva è seminata proprio come l'immagine del patto per mezzo del seme di Zeirampin che le è stato dato, che è stato dato a lei. Nel segno del Brit, che questo è l'aspetto del segreto di unità, è per dire nel segreto di Zivug, dice proprio come con Nukva che riceve da Zeirampin 5 Chasadim e 5 Gvurot. E questo è chiamato seme. Lei li riceve attraverso 42 zivugim, plurale di zivug. 42 volte Nukva fa zivug con Zeirampin. Più avanti vedrai qual è il significato di questo. Guarda come nell'ordine delle radiazioni, nella sua costruzione di Nukva, qual è il significato più profondo delle sue parole? Nukva e Zeirampin hanno 42 volte Zivugim. In 42 Zivugim, Zeirampin dà il suo seme a Nukva. L'analogia di questo è la costruzione della Nukva. Prima che lei possa avere Zivug con Zeirampin, ha bisogno di costruire se stessa con il nome 42. Più tardi si otterrà il significato più profondo di questo. Prima ho parlato di 10, 13, 7, 6 e ora 42. Ci sarà un momento in cui avrai l'esperienza e poi sarai in grado di fare 42 zivugim proprio come Zerampin e Nukva. Non pensare che sto parlando del fisico. Da Binah, che è chiamata atto di creazione. Questo era anche nel segreto del nome 22. Un aspetto è che mediante i 42 zivugim fatti con Zerampin è diventato possibile ricevere la luce. Un altro aspetto è la costruzione della Nukva, e questo accade con il nome 42. In seguito ci sarà una spiegazione. E sai già che ci sono due stati nella struttura di Nukva, che sono Katnut e Gadlut. La piccola condizione è la grande condizione. Quando leggi questo, sai già che è qualcosa sulla costruzione. Quando è diventato maturo, che significa 10 sfirot, è la grande condizione, e quando è la piccola condizione, significa che non c'è abbastanza forza per passare la luce sull'inferiore. Un bambino non può fare figli. Fare figli significa che c'è già una certa consapevolezza considerando i punti di forza. Vedi, Katnut è chiamato nel nome intagli. Significa che la luce fa intagli. Katnut è il tempo di fare intagli. Così più tardi la luce può essere ricevuta, Gadlut. In questo vedi intagli e ha a che fare con il tempo di preparazione. Cosa significa il nome scolpito, gli intagli che facciamo proprio come fece Nukva? Lui dice: questo significa scolpire in te stesso un serbatoio per ricevere le luci al tempo di Gadlut. Abbiamo bisogno della piccola condizione. Questo è il tempo in cui senti di non essere perfetto. Il tempo dell'oscurità, e quello è il tempo di fare intagli. Tutto è necessario affinché la luce possa venire a te più tardi. È un momento di correzione, non importa la condizione. Perché ogni cosa che deve essere ricevuta da Nukva nel tempo di Gadlut esige una preparazione e adatta nel tempo di Katnut. Lo stesso con noi. Quando sei nell'oscurità, sperimenti la sofferenza, eccetera. In quel momento gli intagli che sono fatti significano che lasci che l'intaglio fatto in te riceva Gadlut più tardi. Per mezzo degli intagli, nel tempo di Katnut, stai facendo Kelim, e nei Kelim puoi ricevere la luce. Prima c'è bisogno di limitazione, dove la luce può venire, dove la luce può essere ricevuta. La costruzione dei Kelim, quella è Katnut, e quando la luce entra è Gadlut. E quindi è chiamato nel nome di intaglio, e l'aspetto di Gadlut in lei è chiamato nel nome esplicito. Quando una persona riceve Gadlut, non c'è bisogno di essere nascosto, non è necessario che il suo esterno sia nascosto. Esplicito significa che è conosciuto, e nel tempo di Gadlut la Nukva riceve il suo nome esplicito. Ora lei può ricevere tutte le sue sfirot, e quello è chiamato nel nome esplicito. E quel nome è Yud-Ei-Vav-Ei. Ora ci dà un principio importante, ed è importante imparare questi principi, perché tutto ciò che è nascosto nel tempo di Katnut sarà esplicito e conosciuto nel tempo di Gadlut. Solo allora li conoscerai. Qui non si fa menzione dell'intelletto, l'uso della testa, perché in quello non raggiungerai nessuna cosa. Solo quando c'è Gadlut avrai comprensione. Comprensione non solo nel cervello, ma comprensione perché l'hai sperimentato. Hai bisogno dell'esperienza di eternità e quello è Gadlut. Il nome intagliato è il tempo di Katnut, che significa il tempo di fare Kelim. Quando c'è il nome esplicito, è il tempo di Gadlut, che significa che i Kelim sono aperti, visibili. In Katnut ogni cosa è nascosta, bloccato, ma non in Gadlut. In Gadlut non puoi nasconderti perché è il tempo in cui sei connesso con il mondo intero. Quando sto imparando Etz Chaim ho questo sentimento. Ovviamente mi manca ancora la forza per fare questo tutto il giorno, ma quando sto imparando l'albero di vita sento di essere assolutamente uno con ogni cosa. Lo sperimento e al tempo stesso non c'è sofferenza o altro. C'è solo luce e unicità, proprio come dovrebbe essere quando il Messia è qui o quando è Shabbat. Posso generare questo in me stesso e anche tu puoi farlo. L'unica cosa di cui hai bisogno è il desiderio profondo, la giusta kavanah, più esperienza più desiderio. Mai si verifica la saturazione. Perché? Perché sto facendo i miei kelim sempre più grandi e maggiori, quindi voglio sempre di più, ma ovviamente non per me stesso. La conoscenza che viene a te non è per te stesso. Non è la tua testa che riceve la conoscenza e ovviamente hai bisogno di usare la tua testa, ma è il tuo interno che riceve, non il tuo esterno. Fai uso della tua saggezza interiore che sarà kosher. La tua saggezza interiore non conosce discussione, è il tuo esterno che dice agisci normale, che vuole discutere. L'interno vuole solo conoscere la verità o la falsità. E questo è ciò che lui, lo Zohar, dice quando fu seminato il nome scolpito ed esplicito. È chiamata la Nukva nome. Nukva è il nome. Noi diciamo, lei ha bisogno di lavorare nel nome del cielo. Il nome è Malkut e il cielo è Zerampin. Scolpita è la sua Katnut. Esplicita è la sua Gadlut. Queste due condizioni, Katnut e Gadlut, hanno a che fare con la costruzione di Nukva e non con lo Zivug con Zerampin. E questo è anche il seme che è costruito da 42 lettere. Zerampin e Nukva hanno contatto per mezzo di 42 Zivugim. Per costruirsi, Nukva ha bisogno di 42 lettere. Proprio come i 42 Zivug, che sono nel segreto dell'unità del segno di Brit, con Yesod di Zerampin. Per costruire la Nukva hai bisogno di 42 lettere. Ed è quello che lui dice. 42 lettere dell'atto di creazione che ha costruito Nukva, che sono 42 lettere che sono state portate qui, da Bereshit, la prima parola della Torah, fino alla lettera Bet di Bou. 42 lettere sono date dall'inizio della Torah fino al nome esplicito di Nukva, il momento in cui lei ha Gadlut. Sembra tutto caotico ed è grande. È stato lo stesso con le lezioni del grande maestro divino Ari. Non mi confronto con lui, Hashem proibisca, ma quando ha insegnato c'era anche il caos, e il caos è grande, quindi può essere risolto dentro di te. Lentamente il lavoro farà tutto da te. Lentamente il lavoro sarà fatto tutto da te. Ora siamo venuti alla visione di Sulam, ma questo è per la prossima lezione.